Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo dal punto di vista di tutti gli animali. Questa settimana parleremo di isole quasi incantate, di abitanti della città tanto familiari quanto sconosciuti, di presunti desaparecidos e di popolazioni che ci osservano dall'alto. La musica di Giuseppe Coco, come al solito, ci accompagnerà nell'ascolto, con brani selezionati in base ai temi che affrontano o in virtù della vicinanza dei loro autori all'approccio verso il mondo e verso gli animali che ispira questa trasmissione. Negli anni scorsi Restiamo Animali ha seguito con grande attenzione le vicende dell'isola di Gorgona, la più piccola dell'arcipelago toscano, da molti anni adibita a penitenziario e abitata pressoché esclusivamente da detenuti e addetti al carcere. La struttura penitenziaria include anche un'azienda agricola con animali di allevamento, nella quale lavorano i carcerati, e lì è stato impiegato a lungo il veterinario Marco Verdone, il quale nel tempo è riuscito ad avviare un originale, pionieristico progetto di liberazione animale che ora arriva finalmente a compimento. Verdone, in collaborazione con il direttore del carcere Carlo Mazzerbo e con gli stessi detenuti, già anni fa arrivò a definire una carta dei diritti animali della Gorgona e a ottenere la sospensione delle attività del piccolo macello. In una struttura che ha il compito di riabilitare e reinserire nella società i detenuti, come chiede la Costituzione, sosteneva Verdone, non è ammissibile che esista una struttura di violenza e di morte quale un macello. Un principio ineccepibile, per attuare il quale è stato però necessario un percorso lungo e difficile, complicato dalle dinamiche interne al Ministero e anche dalla concessione a privati, a un certo punto, di gran parte dell'azienda agricola. Il progetto in quel frangente sembrava tramontato, con lo stesso Verdone che era stato trasferito ad altro incarico. Ma il filo in realtà non si è mai interrotto del tutto, grazie anche alla mobilitazione del movimento animalista. Così, alla fine, si è arrivati a una conclusione positiva. È di questi giorni la notizia che il carcere e la LAV, Lega Antivivisezione, da sempre in prima linea per la salvezza degli animali di Gorgona, hanno firmato un protocollo d'intesa per la ripresa del progetto di relazione fra uomini e animali, in chiave riabilitativa. Così i 588 animali oggi presenti sull'isola, fra vitelli, maiali, conigli, capre, saranno tutti salvati. L'ideale di convivenza, sostenuto da centinaia di persone, con il contributo di intellettuali e attivisti, fra i quali rammentiamo le figure di Stefano Rodotà e Susanna Tamaro, prende quindi una forma definitiva. Il mattatoio sarà finalmente smantellato e circa 450 degli animali saranno ricollocati subito in altre strutture, sulla terraferma, a cura della LAV, con il vincolo della non macellazione e della non riproduzione. La LAV in particolare si farà carico di un primo nucleo di animali destinati al centro di recupero di Semproniano e garantirà l'acquisto del cibo per gli animali che rimarranno sull'isola, attingendo dai fondi raccolti grazie alle donazioni del 5 per 1000. Gli animali che rimarranno alla Gorgona invece saranno inseriti in progetti di riabilitazione dei detenuti, curati in collaborazione con la Cattedra di Diritto Penitenziario dell'Università Bicocca di Milano. Si tratta quindi di un progetto complesso, articolato, che sembra promettere bene. Il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, commentando la notizia, dice che finalmente si riesce a concretizzare un vero e proprio laboratorio di buone pratiche di relazioni non violente umano-animale. Gli animali di Gorgona non saranno più considerate macchine, ma amici, mediatori e cooperatori di rieducazione. Esseri viventi che da oggi hanno nuovamente un futuro. Ma si sbagliò la colomba, ma si sbagliava. Cercava il nord, ma era al sud. Penso che il grano era l'acqua, ma si sbagliava. Penso che il mare era il cielo e la notte la mattina, ma si sbagliava, ma si sbagliava. Vedeva stelle, era rugiada, aveva caldo, c'era la neve e si sbagliava. Fra gli animali urbani più comuni con i quali entriamo più facilmente a contatto figurano senz'altro i piccioni, i quali svettano anche in un'altra graduatoria, quella degli animali più antipatici, più avversati, più soggetti alle maldicenze. Hanno una cattiva fama i piccioni e ne pagano le conseguenze. La loro eliminazione fisica è spesso evocata e non di rado attuata a furor di popolo. Tanto è diffuso l'astio verso di loro. Dei piccioni si dice praticamente di tutto, che sono troppi, che sporcano, che portano malattie. Sono espressioni queste che suonano familiari anche in altri ambiti. E non è un caso, perché sono applicate normalmente a tutti i gruppi alieni, agli indesiderati, a chi è percepito e poi spesso indicato come avversario, come nemico, come fonte di pericolo. Eppure i piccioni non hanno le colpe che vengono loro attribuite, che sono per lo più dicerie. Proviamo a pensare come sarebbero le nostre città senza i piccioni. È ancora possibile immaginare uno scenario del genere? Probabilmente no, ci sentiremmo più soli e sentiremmo la loro mancanza. A una serata organizzata nei giorni scorsi da Restiamo Animali e dedicata a questi singolari abitanti dei nostri centri urbani, abbiamo avvicinato i due relatori, Alessandro Lamuraglia e Simona Mangani. La serata si intitolava, non a caso, Tiro al piccione. Sentiamoli. Siamo con Alessandro Lamuraglia, ricercatore, esperto, attivista, specialista della relazione con i piccioni, animali che ci sono molto familiari, sono in tutte le città e però sono anche molto detestati. Perché c'è questo astio verso i piccioni? L'astio in realtà deriva da una serie di leggende metropolitane che si sono susseguite. La causa è che i piccioni, non per loro volontà, ma sono stati resi randagi dagli uomini che li hanno allevati per millenni e poi li hanno abbandonati. Questo abbandono ovviamente ha provocato la loro presenza massiva nelle nostre città, ma è una cosa indipendente dalla volontà ovviamente dei piccioni, e quindi è iniziata ovviamente una campagna di odio, no? Nei loro confronti, che hanno diffuso maggiormente dei pericoli che in realtà sono inesistenti. Quindi questa, diciamo, è la motivazione. Ma c'è qualche pericolo vero invece nel rapporto con questi animali dentro le città? Pericoli per noi, per la nostra salute, non ce ne sono assolutamente. Lo dicono le ricerche scientifiche e lo dice la pratica, perché in realtà se tutto ciò fosse vero noi saremmo tutti ricoverati ai reparti di malattie infettive, visto che stanno sulle nostre panchine, sui nostri scalini delle piazze, eccetera, eccetera. Quindi pericoli reali sulla salute non ce ne sono assolutamente. Che animali sono i piccioni, allora, liberati da quest'aura di maledizione che li circonda? Allora, i piccioni sono degli animali in origine domestici, in origine voglio dire all'inizio della nostra civiltà, perché sono stati appunto addomesticati dagli uomini che li hanno prelevati dal loro habitat naturale, che erano rocce e scogliere di tutte le parti del mondo. Sono stati addomesticati per sfruttare le loro qualità, che erano quelli del ritorno sempre al nido, che permetteva alle persone di usarli come messaggeri, quindi di portare messaggi. Questo è stato, diciamo, lo sfruttamento più importante. I piccioni in realtà hanno un carattere domestico esattamente come ce l'ha un cane e un gatto, e si affezionano allo stesso modo, sia tra di loro ma anche nel rapporto con l'umano, che ormai è la loro natura da migliaia di anni, perché così è successo, nel senso, loro una natura, essendo stati portati via dal loro ambiente naturale in origine, la loro natura attuale è proprio quella di stare insieme all'uomo che li ha allevati e poi abbandonati. Che cosa si potrebbe fare a questo punto per migliorare questa convivenza così difficile apparentemente? In pratica bisognerebbe ripristinare lo stato che loro hanno vissuto per migliaia di anni, cioè quello di ricostruire delle colombaie. Ci sono dei progetti europei, c'è qualche tentativo anche in Italia, delle colombaie che ovviamente andrebbero seguite, dove poterli ricollocare e, per controllare le nascite, sostituire le loro uova. Così ci sarebbe una riduzione graduale e naturale della loro presenza e starebbero nell'ambiente che è più adatto a loro. Siamo con Simona Mangani, altra espertissima, attivista, specialista nella relazione con i piccioni, e le chiediamo che tipo di relazione è possibile avere con un piccione. Noi siamo abituati ad animali da compagnia che sono il cane, il gatto. Il piccione di fatto può essere un ottimo animale domestico, al pari di un cane e di un gatto. Probabilmente cane e gatto li conosciamo bene, siamo più abituati a relazionarsi con loro, però in realtà anche il piccione, quando capisce che noi vogliamo bene, quando lui si affeziona a noi, si crea un rapporto bellissimo, fatto di scambi. Non è raro che il piccione, appena ci vede, inizia a sbattere lievemente le alette, no? E quello è il modo che fanno in genere i piccolini quando si avvicina alla mamma. È anche un modo che fra di loro usano quando ricevono il compagno, e ci accorgiamo che spesso lo fanno anche con noi quando si instaura quel legame d'amore con loro. I piccioni sono dunque animali molto familiari per tutti noi, per quanto poco li conosciamo. E d'altra parte, che cosa sappiamo davvero di chi solca i nostri cieli urbani? Poco, pochissimo. Ci aiuta però un rapporto curato dalla LIPU, Lega Protezione Uccelli, che ha raccolto in volume gli atti di una tavola rotonda organizzata a Napoli nel settembre scorso, nell'ambito del convegno italiano di ornitologia. La nuova mappatura dei cieli cittadini segnala molto movimento, con diversi cambiamenti in corso. Nei cieli delle nostre città ci sono molti meno passeri di un tempo, mentre aumentano falchi e gabbiani. Oggi Giacomo Leopardi, osservando gli alberi, i tetti, i cieli della sua Recanati, non si fermerebbe forse al passero solitario e dedicherebbe qualche verso ai nuovi inquilini dei cieli urbani. Secondo lo studio della LIPU sono in corso due tendenze principali. Accanto al consolidamento nei centri storici di piccioni, rondoni, merli e storni, una è positiva, l'espansione del colombaccio, l'altra appunto riguarda i passeri, una specie che si è addirittura dimezzata per numero di presenze nel corso degli ultimi 10 anni. Soffrono anche la lodola e l'usignolo, anche loro mal sopportano i cambiamenti dell'habitat tradizionale dovuti al consumo di suolo. Insomma, anche dagli atlanti ornitologici urbani arriva un'indicazione sempre regolarmente disattesa. Dovremmo cioè prestare attenzione a tutti gli abitanti della città, alle loro esigenze e necessità vitali. Se lo facessimo, scopriremmo di avere centri urbani migliori per tutti, cioè per tutti gli animali, umani inclusi, Avremo città più verdi, con più prati, alberi, cespugli e con meno asfalto e cemento. L'aria sarebbe più pulita, i cieli più azzurri e anche più trafficati dagli animali alati. La musica della puntata è tutta dedicata alla famiglia di colombi, piccioni e affini. Varie declinazioni, però puntiamo in maniera un po' sarcastica l'ascolto su un brano di Giuseppe Masia, un comico, cabarettista e cantante italiano che ha fatto Piccione Maledetto, dove in un minuto c'è proprio concentrato tutti i luoghi comuni di questo pennuto. Piccione maledetto, sempre alla ricerca delle briciole, io te ne stacco il becco se ti rivedo ancora sulle tegole. Non sei un alimento come la quaglia, il pollo alla diavola, duro come il cemento. Non ho mai visto due piccioni in una tavola. Le rondini se ne vanno e tu rompi le balle per tutto l'anno. Me l'ha detto mia nonna che da 50 anni fai la cacca sui panni. Brutto bastardo d'un piccione, ti butto giù dal cornicione, con un colpo di pallettone ti spezzo le ali e poi le tiro al cane. Brutto bastardo d'un piccione, appollaiato sul balcone, se ti vedo sullo stradone io ti metto sotto con il mio furgone. Morto Logas. Una notizia preoccupante arriva dai ministeri romani. È una notizia che ha messo in allarme associazioni e famiglie, perché pare che nelle nuove linee di indirizzo nazionale per la ristorazione, a cura del Ministero della Salute, siano tornate prescrizioni anacronistiche, come l'obbligo di certificazione medica per avere pranzi vegetariani o vegani nelle scuole, negli ospedali, nei ricoveri per gli anziani. Si tratterebbe di un imprevisto e poco comprensibile passo indietro, se consideriamo che le attuali linee guida, emanate nel 2010 e anche una nota chiarificatrice del 2016, hanno affermato che la scelta etica e culturale vegana o vegetariana, non essendo una malattia, non è sindacabile né attestabile da un medico. La LAV, in un suo comunicato, afferma che la marcia indietro è opera di una ben precisa parte della commissione incaricata di elaborare le linee guida. Una parte, scrive la LAV, ben nota per le sue posizioni ideologiche anti-vegane. Se così fosse, comunque, toccherebbe al resto della commissione intervenire e riportare le linee guida lungo i binari della logica, lasciando quindi ai singoli e alle famiglie la facoltà di scegliere la propria alimentazione. Tanto più che da molti anni ormai i pregiudizi e le diffidenze verso l'alimentazione a base vegetale sono stati superati dagli studiosi e dalle stesse associazioni internazionali dei medici nutrizionisti. Per quanto va riconosciuto tale consapevolezza, tardi a farsi largo nella classe medica, ancorata a modelli alimentari e a convinzioni del passato. Staremo a vedere se il ministro della Salute Roberto Speranza interverrà o accetterà questa inspiegabile marcia indietro. Parlando di mense e di cibo, nonostante gli svarioni delle commissioni ministeriali, viene inevitabilmente l'acquolina in bocca. Sentiamo allora a quale notizia della settimana si è aggrappato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni per la sua impagabile ricetta. L'ennesimo ormai, come sa bene chi frequenta il nostro sito restiamoanimali.it e cerca fra i file seguendo il tag Il Pasto Gentile. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Cucina Regionale Vegana, edito da Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ultimamente abbiamo organizzato una bella serata dedicata ai piccioni. Il menù a tema, preparato per la serata, era ispirato alle città con famose piazze popolate da queste dolci e spesso bistrattate creature. Oggi vi racconto il piatto dedicato a Piazza San Marco a Venezia. Si tratta del radicchio rosso in crosta con semi. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di farina di frumento, 200 g di semola di grano duro, 12 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di zucchero di canna, 300 ml di acqua tiepida, 2 cespi di radicchio rosso, 2 cipolle, dell'olio extravergine di oliva, 20 g di farina di riso, 100 ml di latte vegetale, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, sale e pepe, un cucchiaio di semi di girasole e della curcuma in polvere. L'amore una colomba che tremeggia. Fate sciogliere il lievito di birra nell'acqua tiepida, aggiungete lo zucchero e lasciate riposare 5 minuti. Unite i due tipi di farina, quindi impastate con il lievito, aggiungete del sale e un cucchiaio di olio extravergine. Formate una palla e lasciate riposare per un'ora, coprendo con un panno umido in un luogo caldo e asciutto. Nel frattempo sbucciate le cipolle e affettatele finemente. Fatele scottare in poca acqua e quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate soffriggere per pochi minuti. Unite il radicchio rosso che avrete lavato, asciugato e tagliato a strisce. Fate cuocere fino a quando tutta la sua acqua si sarà ritirata. A questo punto aggiungete la farina di riso e il latte vegetale. Aggiustate di sale e pepe, unite anche il lievito alimentare a scaglie e lasciate intiepidire. Lavorate nuovamente la pasta lievitata e dividetela formando 2 palline che lascerete lievitare per altri 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, stendete la pasta e formate 2 dischi. Coprite una teglia da forno con uno strato di pasta, farcite con radicchio rosso, bagnate con poca acqua i bordi e chiudete con il secondo strato di pasta. Premete sui bordi per sigillare la focaccia, quindi spennellate la superficie con della curcuma in polvere sciolta in poca acqua e una goccia di olio. Decorate con i semi di girasole e fate cuocere a forno ventilato per 40 minuti circa a 180 gradi. Lasciate riposare prima di servire. Il 17 gennaio scorso nelle piazze di molte città italiane sono comparsi cavalli, mucche, pecore, asini, capre, galline, tutti animali di allevamento condotti a farsi benedire nella ricorrenza di Sant'Antonio da Padova. È una tradizione, hanno spiegato i cronisti nel riferire la notizia, e in effetti è così. Ma c'è anche un altro modo possibile per guardare a simili manifestazioni. Si può cioè porre l'attenzione sugli animali, anziché sul rito, e il discorso inevitabilmente cambia. Tutto viene coperto da un velo di tristezza, visto che capre, mucche, asini, maiali, cavalli, galline, pecore sono in quel momento, davanti al prete che li benedice, animali prigionieri esibiti a una sorta di fiera religiosa. Il loro destino, come ben sappiamo, è sempre segnato. La cosiddetta festa degli animali ha fornito l'occasione alla Coldiretti per tracciare un bilancio della cosiddetta zootecnia, un comparto da 17,3 miliardi di euro e 800.000 posti di lavoro. Coldiretti ha lanciato un allarme. Nelle stalle, dice, si è perso in pochi anni 1 milione di animali e quindi la biodiversità è a rischio. Secondo il linguaggio di Coldiretti, sono potenzialmente in estinzione 130 razze allevate, 38 di pecore, 24 di bovini, 22 di capre e così via. La mucca chianina, quella marchigiana, il cavallo italiano da tiro, la capa grigia ciociara, la gallina ancona e così via. Tutte varietà a rischio. Anche qui c'è un altro modo di osservare lo stesso fenomeno. La biodiversità di cui parla Coldiretti non ha niente a che vedere con i fenomeni naturali cui normalmente si riferisce questo concetto, vista che la mucca chianina, la capra grigia ciociara, la gallina ancona e tutte le altre sono creazioni degli allevatori, non esistono in natura e il loro tramonto è unicamente indicativo della trasformazione della zootecnia, sempre più industrializzata e omogeneizzata, come tutto del resto nel mondo del mercato e del consumo contemporaneo. Coldiretti alla fine sembra rimpiangere le vecchie stalle e le vecchie razze, ma al tempo stesso insegue, come tutti nel mercato, l'aumento dei volumi, dei capi di bestiame, delle vendite, in un'infinita crescita dei consumi di suolo, di vite, di tutto. Insomma, il mercato che uniforma le razze di allevamento non sta compromettendo la biodiversità della natura, ma sta certificando un passaggio di fase avvenuto già molti anni fa. Il fatto è che nei tempi attuali l'industria dell'allevamento, in tutte le sue forme, ha qualcosa di anacronistico e sembra incapace di guardare al futuro. Forse perché in una società a venire capace di frenare la catastrofe climatica in corso, un posto per questa industria non ci sarebbe. Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà. Intanto è bene essere coscienti di qual è la vera posta in gioco. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster love. And some people call me Maurice, 'cause I speak of the puppetess. Chiudiamo parlando ancora di mucche, con una notizia che arriva dall'Università di Sydney, dove Alexandra Green ha guidato un gruppo di ricerca che ha registrato e analizzato i muggiti di 13 mucche. I ricercatori hanno scoperto, con loro sorpresa, ma domandiamoci se ci sia davvero da essere sorpresi, che le mucche sono in grado di esprimere emozioni, di fare commenti al tempo e sul cibo, di palesare eccitazione, sorpresa, impegno, angoscia. Abbiamo scoperto, ha detto Alexandra Green, che l'individualità vocale del bestiame è relativamente stabile in diversi contesti agricoli carichi di emozione. Le mucche da latte comunicano continuamente fra loro, ma quando parlano di cose più felici, come il cibo, i loro muggiti sono più sonori. Quando si lamentano del tempo, i loro muggiti, pur mantenendo l'individualità come una sorta di impronta genetica, sono più bassi. Così la ricercatrice. I risultati di questo studio sono stati illustrati come un possibile supporto agli allevatori, che potrebbero tenerne conto per rendere la vita quotidiana degli animali meno sgradevole. Ma anche stavolta c'è un altro modo di interpretare la stessa cosa. Questa ricerca in realtà dimostra l'ovvio. Ogni mucca è un individuo, capace di emozioni. È un essere senziente e non un oggetto o un corpo inerme a disposizione di chi lo usa per i propri fini. Girls who want boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Con la bellezza e le emozioni delle mucche chiudiamo davvero la puntata. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è per la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.